Buonasera, benvenuti a tutti, un saluto dalla Biblioteca Claudia Augusta e da parte dei colleghi e anche della direttrice. Ho il piacere di presentare questa serata che è qui in biblioteca e per cui vorrei parlare un po' anche delle attività che facciamo nella biblioteca. Innanzitutto vorrei parlare dei nostri gruppi di lettura. Ne abbiamo ben due. Uno, proprio il 15 febbraio, quindi tra un paio di giorni, si riunirà qui nella sala della biblioteca e si tratta di Tutti i Saggi, quindi un gruppo che si occupa di saggistica. In questo incontro avremo come facilitatrice la dottoressa Franca Toffol, che ci parlerà degli obiettivi dell'Agenda 2030, ma in particolare il focus sarà sulla parità di genere e sull'archivio delle donne, per cui insomma l'argomento sarà questo. Per quanto riguarda invece il successivo incontro riguardante il locale, cioè la narrativa locale, il gruppo di lettura localmente si riunisce invece l'8 marzo, questo appunto sempre in biblioteca, e se volete partecipare insomma siete ben invitati. Per quanto riguarda la serata di stasera invece abbiamo qui Eugen Galasso, dottor Eugen Galasso, e come lettrice la nostra Maria Piazzanetti, sono tutti e due nostri abitué, diciamo, per cui li ospitiamo molto volentieri, ospitiamo l'Associazione Culturale LATMAC e l'Associazione Scrittori Alto Atesini, e per cui per questa serata tributo a Luana Angermaier ho il piacere di passare la parola a Franco Latino, appunto della LATMAC, dopodiché cominceremo questa bella serata. Buona serata. Prego. Prendo la parola e mi nascondo con una emozione fortissima. Io sono Franco Latino e sono attualmente il marito della Luana Angermaier. Noi siamo sempre stati uniti dall'amore, ma anche dal grandissimo amore per l'arte, la poesia, la letteratura e la bellezza in genere, perché la bellezza e l'amore per l'arte ci rende più liberi, e io direi che più della bellezza ancora l'amore, perché quando c'è l'amore, anche nei momenti più difficili dei rapporti, si trova sempre una soluzione serena e pacifica. E l'amore, dico che è la cosa essenziale, più di ogni cosa, più della bellezza che noi amiamo tanto, perché sono sicuro che lei da lassù l'arte per lei era tutto, e scrivere e dipingere, perché l'amore primario è stato la pittura da sempre, e mi fa piacere anche vedere delle persone presenti molto lunghe, e vedo con molta affettuosità e che ci sono stati appunto in questi rapporti artistici di conoscenza e di collaborazione. Io non vorrei perdere altro tempo e vi ringrazio e cedo. Grazie mille. Vi ricordo che in biblioteca ci sono i libri di Luana Angermaier, li potete trovare anche all'ingresso per sfogliarli e portarli anche a casa volendo in prestito, ok? Ecco, allora così cerco di essere breve e possibilmente di non ripetere cose scritte qui nell'introduzione o dette in altra occasione. Devo dire la verità, riferendomi anche all'intervento importante prima di Franco, commozione ci prende inevitabilmente, e così insomma, anche se è passato un certo tempo, un po' meno di 2 anni, se non sbaglio, dunque un anno e 9 mesi fa, no? Ecco, è successo la cosa. Per cui purtroppo Luana Angermeyer non è qui con noi. Così, veramente un artista a 360 gradi, perché pittrice, e qui anticipo che prossimo anno ci sarà una mostra a Bolzano e anche a Milano, nell'anno uscirà ancora un altro volume di racconti. E quindi veramente, insomma, sia come pittrice sia come, possiamo dire veramente, autrice non solo di romanzi, e li trovate là al banchetto, ecco, sia appunto a capo sia i due diciamo romanzi tra virgolette gialli, che poi lo sono in modo molto particolare. Qual è la caratteristica da un punto di vista, diciamo, stilistico, io dico, dei significanti di questi racconti che presentiamo, Il campo profughi? Ma direi lo stile colloquiale, quindi immediato, senza circonlocuzioni, uno stile paratattico, quindi proposizioni principali, proposizioni coordinate, pochissime e solo necessarie proposizioni subordinate, grande rilievo al discorso diretto, no? Voi sapete, in molti romanzi invece, diciamo, e in molti racconti, l'involuzione e le circonvoluzioni prevalgono, ahimè, diciamo, devo fare un mea culpa in questo senso. È uno stile, quindi sono dei significanti che veicolano significati e si riferiscono a quindi dei referenti reali molto importanti. Potrei dire con una formula, per dirlo in francese, Les choses de la vie, è un famoso film di Claude Sautet, purtroppo non l'ho visto, ma ne ho letto, ecco, è un'opera importante, credo degli anni 60 o 70, ma bisognerebbe controllare, scusatemi. È un autore della Nouvelle Vague. Perché le cose della vita? Perché sono quelle che ancora una volta, per dirla così in altra lengua, de quoi il s'agit, no? Di cui trattiamo, quindi ne trattiamo sempre in un modo o nell'altro. Per fare un esempio, il primo racconto qui, che è di una sensibilità estrema, quella sensibilità che l'autrice ha sempre dimostrato come pittrice, come, possiamo dire, poetessa, perché la poesia non è solo in versi, sa esserlo decisamente anche in prosa, può esserlo anche in prosa, e questo è il caso, no? Poiein, da cui deriva poesia, poiein greco antico vuol dire modellare, creare, il che per Luana Angermeyer vale doppiamente, o meglio, in più sensi, no? Nel senso della scrittura letteraria, quindi della poesia, ma anche naturalmente dell'influenza pittorica della pittrice, conclamata, acclamata, anche, dicevo, di una mostra a Milano in preparazione il prossimo anno, e quindi diciamo lo è veramente a 360 gradi, la capacità di cogliere i colori e le nuance dei colori, no? Che abbiamo degli artisti presenti, quindi lo dico un po', diciamo, un po' timidamente, perché l'artista presente ne sa molto più di me in questo campo, quindi non... Però, diciamo, è veramente una sensibilità che i pittori, che sono anche scrittori, alcuni esempi credo siano noti a tutti, no? Pablo Picasso ha scritto testi teatrali, ha scritto poesie. Francis Picabiao, uno dei, degli esponenti importanti del surrealismo, era pittore e poeta, scrittore. In altri ambiti, adesso Enzensberger, altri, Pierpaolo Pasolini era notoriamente anche pittore, oltre che autore teatrale, poeta, scrittore, saggista, regista cinematografico, eccetera. Quindi abbiamo Levi, naturalmente, no? Era sia pittore sia scrittore, quindi primo Levi, no? Era diciamo, impegnato oltre che chimico, no? Poi, ma questo per la formazione e la ricerca scientifica. Ecco, la caratteristica quindi di parlare di temi della vita, qui nel primo racconto cui accennavo, che è La polveriera, c'è purtroppo la morte provocata da droga, dalla droga, dall'assunzione di droga, o meglio, in questo caso, dal piccolo spaccio di droga in cui diciamo, un protagonista di questo racconto era rimasto coinvolto e che gli crea, per la notoria, diciamo, somiglianza, o meglio, diciamo, la concomitanza tra droga e criminalità, per cui diciamo, l'essere stato l'attore di un pacchetto compromettente crea la, poi la morte per uccisione di questo sfortunato protagonista. Gli altri racconti sono incentrati su due fondamentali temi: il trasferimento continuo da una città e da una realtà all'altra, con indubbi problemi per tutta la famiglia, perché per padre, madre, figli, perché anche i figli hanno ovviamente le loro amicizie, le loro esigenze e altro, no? E poi diciamo, i rapporti scolastici, quindi anche il dover continuamente cambiare scuola. Questo era indotto dalla professione del padre di Ivana, che era un ufficiale, e quindi naturalmente i trasferimenti per circostanze varie. Qui nei racconti, con notevole finezza, e proprio questa capacità empatica che Luana aveva, attenzione, io non parlo di scrittura al femminile, perché, perché ci sono autrici, penso, io ho provato a leggere anni fa un libro, tale Patricia Cornwell, per carità, straordinaria giallista. Non amo molto il genere, salvo appunto i libri di Luana, ma e salvo, diciamo, i classici Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, o diciamo Edgar Wallace al massimo, ecco, quindi siamo all'inizio del Novecento, un po' Simenon, preferisco il Simenon, però non autore di Emigré, dico la verità. E ecco, questo libro, scusate, ma è il contrario dell'empatia. Patricia Cornwell, veramente, almeno nel libro che ho letto io, ma so che gli altri più o meno sono molto simili, è molto cruda nelle rappresentazioni, non c'è nessuna pietà per la, diciamo anche nel caso di Sapman, obduzione, quando si dissezionano i cadaveri, insomma, no? E ci va giù dura, pesa, direbbero a Bologna, insomma, no? Scusate, ma non è un genere che appassioni. E in questo caso, ecco, perché scrittura al femminile, no? Parliamo piuttosto di una scrittura di ogni autore. Ogni autore ha una scrittura diversa, ha una capacità empatica o non empatica. In questo caso, senz'altro empatica, nel caso che citavo prima, direi di no. E così, vari casi, anche, lasciamo perdere dettagli, ma dove potremmo appunto distinguere. Semmai è proprio la capacità artistica, quindi quella di cogliere le nuance, le sfumature, che, anche cromatiche, che va bene, no? E che aiuta. L'altro tema di fondo è l'amore, l'amore declinato in, in vari modi, e ci sono però anche, quasi direi in cauda venenum, c'è un simpaticissimo racconto gastronomico, non vi dico qual è, per non togliere la sorpresa, che è pieno di humor, non banalmente di comicità, ma appunto di humor, che è una caratteristica molto interessante, molto importante. Un ultimo rilievo vorrei fare, ci sono due gruppi di due racconti dove l'autrice sperimenta, a mio parere, in modo molto intelligente e molto proficuo proprio come scrittura, quella che si chiama la variazione sul tema. Espressione musicale, come sapete, no? Mutuata dalla musica, non a caso Luan era anche appassionata di musica. E precisamente è il campo profughi Bagnoli-Napoli e poi il viaggio. Nel primo racconto, che è un racconto lungo, c'è tutta una descrizione molto, diciamo, accurata, dove il campo profughi è vissuto positivamente, o comunque non male, ecco, è un approccio che soprattutto la ragazza, la figlia del protagonista, vive con un po' di tremore, di attesa trepida, ma poi si rivela positiva. Invece il secondo racconto, che tratta lo stesso tema, il viaggio, tratta questo impatto col campo profughi in modo diverso, quindi c'è una variazione sul tema molto azzeccata, molto secondo me felice. C'è poi un altro gruppo, appunto, di racconti, e qui mi soffermo un po' più a lungo. La sposa, qual è la situazione? La moglie che dopo vario tempo passa, diciamo, la notte col marito, anche la prima notte di nozze, viaggio di nozze, eccetera, e rimane, diciamo, totalmente vergine, nel senso che il marito non la tocca. E, ecco. E poi la moglie si insospettisce, lo vede, sente qualcosa riguardo alla possibilità che non sia del tutto fedele, e effettivamente non è fedele, ma la tradisce con un uomo. E questo nel racconto Martina si reduplica però in altro modo, e quindi c'è anzi una piena accettazione. Devo pur dire qualcosa anche, diciamo, di me favola narratore. Io ho sempre avuto molta incertezza e non ho problemi assolutamente a dirlo a nessuno sulla mia identificazione dal punto di vista del genere. E per esempio il fatto che io sia sposato con una donna penso sia più che altro casuale, dico la verità. Ho sempre avuto molta incertezza e ce l'ho tuttora, quindi non fate voi. Io ritengo che Luana abbia trattato il tema con una estrema delicatezza, con un'estrema empatia, anche in questo caso, e mi spingo anche più in là, no? Il fatto che oggi ci sia bisogno, c'è stata una polemica, cos'era, 8-9 mesi fa, no? Il decreto di legge Zan. Ecco, che ci sia bisogno di una legge, santo cielo, nel 2023 su queste cose, con un Papa attualmente che si è espresso in modo molto chiaro e molto aperto in questo campo, dimostra che le cose non sono e non stanno come si voleva far credere. Ecco. Mi fermo qua, ma voglio dire che ci sia bisogno oggi di una legge è veramente, dimostra un'arretratezza culturale in Italia, che in altri paesi per fortuna non c'è. Io non sono un fautore di leggi proibitive o diciamo che sanzionino gravemente chi scherza o altro, ma diciamo è proprio un problema culturale, cioè l'accettazione totale dovrebbe essere ormai, e qui c'è, qui è veramente un'autrice che tra l'altro lo ha dimostrato, ricordo anche in un'opera pittorica, ecco, in cui questo veramente si dà. Quindi anche sul versante appunto dei significati e dei referenti, che sono poi anche per esempio in un racconto, in un romanzo, una ghost story, no? una storia di fantasmi, possono esserci però riferimenti alla realtà esterna, la realtà che viviamo sempre, no? Se l'autore è un autore di una certa levatura, di una certa intelligenza, questo lo sa fare e lo sa dire. Quindi tutte queste tematiche della realtà. Ancora, e qui concludo, Oriana è un racconto su una presunta, o meglio, diciamo, additata strega, ex sorcière, witch, bruja, come volete, un po' in tutte le lingue europee, no? In realtà appunto per una vicenda in cui era stata coinvolta da donna povera, da lavoratrice in una casa in cui era stata molestata da alcuni studenti impertinenti che erano figli di buona famiglia, per così dire, viene poi esclusa, additata come strega. Quindi in generale possiamo dire la tematica dell'esclusione e della persona in qualche modo reietta viene totalmente recuperata e totalmente reinserita in un quadro di grande e profonda umanità. Ecco. Grazie. La bravissima Maria Pia Zanetti. Grazie. Ecco, io naturalmente non posso fare altro che unirmi al ricordo affettuosissimo che ho di Luana, persona appunto dolcissima, straordinaria, empatica, sensibile, e quindi anche il mio personale ricordo. Ricordo altresì che questa raccolta, il professor Galasso parlava appunto di scrittura e di pittura che procedono di pari passo, e infatti ricordo che proprio questa raccolta di racconti contiene anche opere, la riproduzione di opere pittoriche di Luana. E quindi il primo racconto, L'americano. Era una splendida giornata di sole. Il sergente maggiore Danilo Ferri, in compagnia della sua cagnetta Nanni, a cui era molto affezionato, si recava al lavoro presso il distretto militare dove prestava servizio. Nanni si notava per la sua particolarità, tutta bianca con una macchia nera sull'occhio. Le avevano tagliate le orecchie e la coda. Era simpatica. I bambini la chiamavano il cane senza orecchie. Gliel'aveva regalata il suo amico dell'esercito americano, Harry. Un giovane alto, con i capelli rossi, dal sorriso simpatico. Era da poco finita la guerra. Erano tempi duri. Danilo era sposato da 3 anni con Elisa, una veneziana, che aveva conosciuto ad una festa in casa di amici. Avevano una bella bambina di nome Marina, chiamata così per i suoi occhi azzurri come il mare. Harry aveva i suoi familiari in America. Stava volentieri in compagnia di Danilo ed Elisa. Nella loro casa si sentiva a suo agio, soffriva meno la mancanza della sua famiglia. Parlava male l'italiano, masticava il napoletano, i suoi nonni materni erano infatti di Napoli. Harry era un sergente addetto al magazzino viveri e spesso portava ad Elisa carne, formaggi, pasta che lei cucinava. E facevano delle buone cenette tutti insieme in allegria. Il sergente giocava con piacere con la piccola Marina, gli ricordava la sua bambina in America. Si buttava a terra insieme alla piccola e le faceva da cavallo girando per tutto il salotto. Lei sorridente in groppa a lui che imitava il nitrito del cavallo. Harry con quelle gambe lunghe occupava tutta la stanza. Nanni si univa al gioco, abbaiando e scodinzolando. Si avvicinava il Natale. Elisa fece un piccolo presepe per ricordare la festività. E Danilo, sorridendo, disse alla moglie: «Chissà se Gesù bambino mi porta un paio di scarpe nuove». Alzò il piede, facendole vedere le suole molto consumate. I militari in quel periodo percepivano un misero stipendio che bastava appena per vivere. Certo che a Natale non ci sarebbe stato molto da festeggiare. Il giorno prima della vigilia, Harry disse a Danilo: «Domani io portare te uno tacco». «E che cos'è?» chiese il giovane. «Tu non capire, ho detto tacco». La moglie sorrise guardando il marito Non aveva capito neppure lei cosa volesse dire Harry. Quando i due giovani rimasero soli, Elisa si rivolse a Danilo dicendogli: «Penso che ci vuole portare dei tacchi per le scarpe». Lui, sorridendo, le rispose: «Beh, speriamo che ci porti anche le suore». Il giorno dopo Harry si presentò a casa degli amici con un grosso tacchino. Danilo, sorpreso, scherzando, gli disse: «Ma questo si chiama tacchino, non tacco!» Elisa non ne poteva più dalle risate, esclamò: «Sei forte, Harry!» L'uomo imbarazzato rispose: «Beh, o tacco o tacchino è lo stesso. L'importante è che Elisa lo faccia arrosto con le patate». Il tacchino rallegrò la tavola del pranzo natalizio. Venne il momento in cui l'esercito americano si ritirò dall'Italia. La guerra era finita e il sergente doveva partire per l'America. Harry era felice di tornare a casa, finalmente dalla sua famiglia. Danilo ed Elisa erano contenti per lui, ma anche dispiaciuti di perdere un caro amico. Harry, prima di partire, regalò una bambola a Marina. Si era affezionato a quella bimba dagli occhi azzurri che lo chiamava zio. Dopo 5 mesi, Danilo venne trasferito a Fossano, in Piemonte. Il secondo racconto si intitola Il viaggio. La campanella suonò. Erano terminate le lezioni. Nei corridoi della scuola si udiva il vociare degli studenti che uscivano dalle aule. Elena e Rosetta, studentesse della quarta ragioneria con i loro zainetti sulle spalle, uscirono insieme. Facevano lo stesso tragitto, erano vicine di casa. Elena salutò l'amica sul portone, salì le scale e suonò il campanello. Venne ad aprirle suo fratello Marco e con un sorriso le annunciò: «Ci sono novità!» «Papà ha trovato lavoro?» chiese la sorella. «Purtroppo no, lo aspettiamo. La mamma ha detto che durante il pranzo ci deve annunciare una notizia importante». «Ecco, è arrivato papà!» annunciò allegra la mamma. Finalmente vidi mio padre con un sorriso. Era da tempo che non sorrideva. Entrò dicendo: «Salve ragazzi, vi annuncio la novità. Si parte». Sbalorditi lo fissarono. «Ma che stai dicendo, papà? Che vuol dire si parte?» chiese Elena. Il padre le rispose: «Si va in America. Qui la situazione non va, figlioli. Andiamo verso una nuova vita. Qui purtroppo non c'è lavoro e dobbiamo cercarlo altrove. Andremo a Bagnoli, vicino Napoli. Lì c'è un campo per l'emigrazione. Dovremo aspettare un po' di tempo per le visite mediche e il nulla osta per partire. Bisognerà avere pazienza. Intanto saremo ospiti del campo». Pranzarono, facendo progetti per il loro viaggio. I ragazzi, ancora increduli, cominciarono a preparare i loro bagagli. E arrivò il giorno di andare. Una valigia a testa e si recarono in stazione. Dopo pochi minuti annunciarono il treno per Napoli. «Svelti ragazzi, cercate di prendere posto», disse il padre. Trovarono uno scompartimento tutto per loro. Papà Cesco, uomo robusto, prese le valigie e le sistemò sul portabagagli. Dopo qualche minuto il treno si mosse ed Elena si affacciò al finestrino. Era triste. Guardò la sua Verona che si allontanava e pensò: «Addio, amici miei. Addio, Stefano, amico del cuore. Forse tra noi poteva nascere una bella storia. Chissà ora cosa mi aspetta». Si sedette e si addormentò col dondolio del treno. La svegliò la voce di mamma Lucia. «Si mangia, ragazzi!» e cominciò a prendere dalla borsa dei panini con il salame. Dopo ore di viaggio, finalmente arrivarono a Bagnoli, scesero dal treno e si incamminarono verso il campo per l'emigrazione. Mamma e papà camminavano insieme avanti, Elena e Marco li seguivano guardandosi intorno curiosi. Arrivati all'entrata del campo, li ha ricevuti un uomo che con la voce burbera chiese loro i documenti, li esaminò e indicò loro dove andare. Ufficio, stanza numero 22. Lì c'era un'impiegata che fece compilare dei moduli, li mandò a ritirare i materassi al magazzino. Rimasero sbalorditi quando gli diedero 4 sacchi di juta e gli dissero di andare a riempirli con della paglia. La paglia? Chiese Lucia. Eh sì, la paglia, rispose l'impiegato. E poi presentatevi in fondo al cortile, al primo piano. Scusi, disse papà Cesco pensando di non aver capito bene, dobbiamo dormire sulla paglia. Eh sì, certo, non siamo mica in un hotel, rispose villanamente l'uomo. Non siamo mica bestie, intervenne Marco. Andate, andate, non vi fate perdere tempo. Uscirono molto delusi e senza dire una parola si recarono verso il posto indicato. Sì, sì, era proprio paglia. In silenzio riempirono i loro sacchi. Elena aveva le lacrime agli occhi, pensava: la mia casa era piccola, ma io stavo bene. Riempiti i sacchi salirono al primo piano, un enorme stanzone. Un uomo venne loro incontro e rivolgendosi a Lucia ed Elena disse: trovatevi un posto, voi maschi andate nell'altro stanzone. Cesco guardò Lucia e con lo sguardo le chiese perdono per averla messa in quella situazione. Le due donne si trovarono un posto, una accanto all'altra. Esauste, si sdraiarono su quel misero giaciglio e si addormentarono. Il mattino seguente Elena si svegliò con un raggio di sole che entrava da una finestra. Dolorante su tutto il corpo e con i segni della paglia sulla pelle. In un primo momento non si rese conto di dove si trovasse, poi vide la madre che dormiva accanto a lei e pensò: no, non è stato un sogno. Intanto un altoparlante invitava i nuovi arrivati a presentarsi a digiuno alla stanza 34 per la visita medica. Nell'ambulatorio c'erano già una decina di persone che attendevano. Un'infermiera si affacciò sulla porta e chiamò il primo nome. Lucia si sedette accanto ad una signora grassa che subito cominciò a chiacchierare e le spiegò che cosa li attendeva. Oh, in America i giovani di solito li mandano a fare i boscaioli, le donne a servizio presso le famiglie, fino a quando non termineranno il loro contratto di lavoro. Sarà una vita dura, poi, liberi dal contratto, potranno cercarsi un lavoro. E Lucia, che non sapeva di questa clausola, ebbe una fitta al cuore e pensò: poveri figli miei. Quando chiamarono il suo nome, Lucia si rifiutò di entrare dal medico. Cesco la guardò e vide i suoi occhi lucidi che a stento trattenevano le lacrime. Lei si avvicinò, la prese con dolcezza sotto braccio. Con un'occhiata chiamò i due figli e uscirono da quella stanza. Fuori nel piazzale Lucia dette sfogo alle lacrime, raccontò tra i singhiozzi ciò che le aveva raccontato la signora grassa. Cesco guardò la sua Lucia, non l'aveva mai vista così triste. E sì, che ne avevano passate tante. La abbracciò stretta a sé, lui amava tanto quella donna che lo aveva sempre sostenuto e gli aveva dato due figli meravigliosi e mai avrebbe voluto vederla soffrire. Si rivolse ai ragazzi dicendo: andate a preparare le valigie, si torna in casa. Non si parte più? Chiese incredulo Marco. No, si torna a casa. Elena era felice di ritornare a Verona. Avrebbe rivisto i suoi amici, il suo Stefano. Poi pensò, non abbiamo più una casa. Tutto ciò che avevamo lo abbiamo venduto per poter partire. E come se leggesse nel suo pensiero, papà Cesco disse, sì, è vero, non abbiamo più nulla, ragazzi. Però abbiamo due braccia e la volontà. E soprattutto siamo uniti. Ci daremo da fare. Ne verremo fuori da questa situazione, ne sono certo. Lucia intervenne. Sì, lavorerò anch'io. Mi adatterò, ma almeno saremo nella nostra bella Italia. Elena e Marco, con entusiasmo, dissero. Anche noi lavoreremo, ormai siamo grandi. Uscirono dal campo con le valigie piene di nuove speranze. Se il professor Galasso vuole aggiungere qualcosa. Volevo dire, rispetto appunto allo stile di lettura a cui facevi riferimento prima, Eugen, che appunto semplicità nello stile di scrittura non significa superficialità, no? Come ha detto Einstein, le cose semplici sono le più difficili perché contengono la verità. Quindi... Io trovo che appunto... Funziona, sì, sì. Forse. Sì. Sì. Ecco, diciamo, direi di più, forse potrebbe essere pletorico, ma senz'altro, ecco, questo a cui accennavo, cioè questa, avete sentito una versione appunto del viaggio, del racconto, ma poi c'è l'altra anche che ha queste variazioni, come per la sposa e Martina c'è questo intelligente gioco, che naturalmente gioco nel senso nobile del termine, quindi il play inglese, non il game, diciamo, dove c'è una ricerca anche linguistica, anche stilistica particolare, anche perché diciamo fornire due volte, diciamo, su temi diversi, due racconti con alternative, quindi con uno sviluppo che viene a essere diverso, è decisamente una cosa interessante. In più, appunto, nel campo profughi c'è il tema, diciamo, se vogliamo, parapsicologico, ossia il sogno rivelatore che dà al marito, poi al padre di famiglia, se vogliamo, la chance per tornare, per non emigrare negli Stati Uniti, dove appunto, secondo quello che viene narrato da questa signora, da questa donna che attende la visita medica, ci sarebbero particolari difficoltà per trovare un lavoro, ecco, diciamo. Aggiungo alle testimonianze precedenti, sia gentilmente di Maria Pia, sia altrettanto, diciamo, una testimonianza molto importante, quella di Franco Latino, purtroppo il vedovo, diciamo, della situazione, che ricordo brevi ma importantissime conversazioni con Luana Angermeyer. Ci scambiavamo impressioni sul difficile stato di salute, siccome abbiamo avuto entrambi operazioni, diciamo così, chirurgiche non piacevoli, parlavamo di questo come spesso avviene. Ecco, per ribadire la capacità empatica di Luana, non solo a livello di scrittura e a livello di creazione pittorica, ecco, anche nel dialogo così consueto, era estremamente, ma qui chiudo perché, scusate, mi commuovo, quindi non vado avanti, ma avete capito, ecco, l'estrema sensibilità della persona. La capacità di dire le cose, di scriverle, di esprimerle con segni e colori, ma anche diciamo con parole parlate, non solo scritte, con parole dette, in modo estremamente sensibile e anche con una finezza che ha in sé lo humor. Lo humor è una capacità rarissima. Se voi pensate, ecco, in qualche caso c'è anche a teatro, ma in genere prevale l'elemento comico. Penso di non dire nulla di ignoto. Plauto, il grande autore teatrale di commedie latino, era un comico, cioè riusciva veramente a far ridere con estrema intelligenza. Terenzio, che è parimenti un grande autore anche comico, però riusciva a essere anche veramente pieno di humor. Lo humor è una, adesso è difficile poi definire le cose in modo troppo così radicale, troppo nel senso di una dicotomia, cioè di una separazione netta tra quello che è comico e ciò che è humor. Diciamo che lo humor, oltre a far ridere, fa anche pensare nel contempo e fa anche riflettere. Facendo un esempio che forse è più Woody Allen, al cinema, io personalmente ho letto anche le commedie, è sullo humor, per cui non fa ridere immediatamente, fa anche ridere, perché se vi ricordate la famosa espressione, dice: no, perché se ascolto Wagner mi viene da invadere la Polonia, se ricordate la battuta di Woody Allen. Naturalmente è comico, però invade, per così dire, anche una tematica un po' seria, che è quella che sappiamo, insomma, no? Poi, detto da un autore ebreo, quale Woody Allen è, ha una valenza anche estrema, no? Insomma, ci sono molti esempi, ma non so, Molière o Goldoni fanno anche riflettere, non fanno solo ridere. Credo che siamo d'accordo più o meno tutti. O per rimanere in ambito, invece, avendo citato prima Woody Allen, Ephraim Kishon, scrittore, ecco, anche lì troviamo la componente umoristica, non solo quella comica, no? Quindi c'è questo ulteriore elemento. Io vorrei che magari concludesse Franco, se se la sente, magari anche come Asa, no? Ecco, varie. Vuoi parlare? Sì. Siediti, magari. Sì. Mi ripresento, sono Franco Latino e sono il presidente dell'associazione culturale Atomac, dell'associazione degli scrittori dell'ASA, scrittori a alto tesimo. Noi, Luana Garmaia, mia moglie, anche lei è una delle fondatrici delle due associazioni, che è stato insieme poi a Franco Maria Maggi anche, nel 1983. Abbiamo fondato delle riviste, la LATMAG e la Gazzetta di Bolzano, che sono della LATMAG, e poi per 25 anni abbiamo organizzato il premio Goffredo Parisi, che è il premio letterario più longevo della provincia di Bolzano, non c'è mai stato per 25 anni. E poi c'è stato questo nostro continuo progetti sempre nel campo sia della pittura e anche in modo particolare della scrittura. Abbiamo pubblicato centinaia già di titoli insieme poi al professor Galasso, e poi abbiamo i nostri autori. Poi l'ultimo libro che c'è la copertina della Luana è del qui presente Umberto Bombasaro, è stato appena pubblicato proprio un libro di racconti che poi verrà presentato, e questa è stata una delle ultime opere della Luana. E parlarne tutto mi trovo, ho una certa emozione che sono anche un po' imbarazzato, però non imbarazzato, dire molto più emozionato che parlare di questo, perché tra noi, mia moglie, c'era, non era soltanto, si era, come dicevo prima, uniti da questo amore per l'arte. Abbiamo dedicato tutto, 40 anni, noi siamo l'associazione è una storica di Bolzano, sono 40 anni è stato tutto così all'improvviso che mi è venuta a mancare questa, e io sinceramente anche a parlarne sono un po' in difficoltà. Comunque è stata una fondatrice dell'ASA, dell'Associazione Scrittori Altoatesini ASA, anche della LATMAG, e poi ha scritto moltissimo anche sulle riviste LATMAG e la Gazzetta di Bolzano, e adesso improvvisamente insomma, però è sempre tutte le illustrazioni, e poi ha illustrato, è l'illustratrice di tutti i volumi pubblicati sia dalla LATMAG, che ringrazio, ha fatto più di 100 illustrazioni, ma sono diffuse sia in Italia che all'estero, come questa qui è sua, questa è un'opera della. E io non so, proseguire, non mi rimane che ringraziare tutti, e innanzitutto della ospitalità della Biblioteca Pio Augusta, siamo sempre conoscenti, poi del professor Galasso e della preziosa Maria Pia, attrice Maria Pia Zanetti, e ringraziare voi, perché avervi tutti mi sembra di stare in famiglia, che ci conosciamo. Grazie. L'ultima cosa, ecco, veramente, anche, non l'ho detto, ma il romanzo, che però è anche una pièce teatrale, e spero soprattutto che lo diventi, del presidente Franco Latino, Matrimonio di sangue in nuova versione, Bluthochzeit, anche in traduzione, e senz'altro, ecco, anche entro quest'anno. In più, ecco, un volume notevole di un amico e collega che è romagnolo e abita attualmente a Cervia, anche se è dell'entroterra romagnolo, è però impegnato a Cervia, e abbiamo presentato già qualche anno fa un suo testo. Bene, grazie ancora, grazie. E alla prossima.